5. Un maiale in abiti eleganti, con una pecora in testa. La parrucca era troppo lunga. La posizione dell'uomo le faceva sfiorare il pavimento. Era grasso e, certo, non molto alto. Anche piuttosto in là con gli anni, si sarebbe detto. Le guance ricadevano flaccide ai lati del volto, come quelle di una scrofa. Non di meno, erano incipriate a dovere e uniformavano l'incarnato al colore della chioma. Labbra e gote ravvivate di rosso, punteggiate da un florilegio di nei. Il respiro gonfiava il panciotto, che sembrava sul punto di cedere come il portale di una fortezza sotto i colpi di un ariete. Le scarpe toccavano appena il pavimento, mantenendo la sedia in bilico sulle gambe posteriori. Rimaneva così, appoggiato al muro, dondolando appena. Philippe si distolse dalla strana creatura e tornò a prestare attenzione al padrone di casa. «Quanto invidio i Mohawk, altezza!» diceva il conte di Warwick rivolto a Joseph, mentre si tamponava il volto incipriato. «Un popolo che si dipinge la faccia solo per andare in battaglia!» Philippe ricordò che all'ingresso del salone un domestico con una giacca piena di bottoni aveva preso in consegna i loro cappelli e aveva fatto l'annuncio. «Sua altezza Joseph Brant Tayandanega, principe di Gangiaore e il signor Philippe de la Croix!» Philippe era rimasto interdetto. Al confronto il colonnello Guy Johnson e il tenente Daniel Klaus sembravano semplici membri del seguito. Perfino Peter aveva ricevuto un'accoglienza più calorosa in qualità di vittorioso campione del re. Vide Joseph schiudere le labbra per rispondere qualcosa, ma il conte aveva già riattaccato a parlare. «Voi siete il clou della serata, ma i miei ospiti sono a dir poco spaesati. Si immaginavano esotici guerrieri, scalzi, il volto dipinto, coperti di penne e piume. Sulle prime sono rimasti delusi nel vedervi tanto gentiluomo. Tuttavia vi assicuro che non stanno nella pelle», e col braccio fece un ampio gesto circolare a indicare la vastità del salone. Filippo osservò gli invitati. Difficile attribuire natura umana alla maggior parte di quegli esseri coperti di tessuti sgargianti, stretti negli abiti, in bilico su tacchi di 10 pollici. Dita invisibili sotto grappoli di anelli, teste affossate nelle spalle sotto il peso di parrucche simili a uccelli impagliati. Erano intenti a ballare, bere, ruminare cibo, conversare. Warwick parve capire cosa passava per la testa del guerriero. Sorrise e spiegò. «Questa fauna è molto diversa da quella dei vostri boschi, n'è vero, Monsieur Lacroix? Ma vi assicuro che dietro all'aspetto ridicolo, il son ni plus ni moins que de bêtes féroces». Joseph, che non capiva la lingua di Molière, aggrottò la fronte. Warwick venne in suo soccorso senza guardarlo. I suoi occhi erano vuoti, ora. Era come se parlasse a se stesso, dimentico degli ospiti, in uno stato simile al sonnambulismo. «Belve feroci, principe. Mostri che lo stesso Linné, il grande naturalista, non sarebbe in grado di classificare. Dopo una buona occhiata li si direbbe primati, famiglia degli ominide. Ma alcuni di loro sono rapaci notturni, altri insetti simili alle termiti. Altri ancora rettili dal sangue gelido. Tutti carnivori e cacciatori, uccidono per mangiare. Ma la loro fame si chiama noia, vivono nel perenne bisogno di trovare qualcosa di nuovo, qualcuno di nuovo. Distrarsi, ghermire negli altri l'autentica vita, la jouissance che essi sono condannati a simulare. Quando trovano una preda la divorano, piluccano ogni ossicino, lo spezzano e ne suggono il midollo». Philippe e Joseph erano rimasti a bocca aperta. Il conte li guardò, si scosse dalla trance e proseguì su un altro registro. «Bene, stasera le prede siete voi. Avreste dovuto sentire le corbellerie dette sul vostro conto poco prima che giungeste qui. Circolano idee affatto bizzarre sugli indiani tra la nobiltà inglese. Prendete per esempio il duca di Northumberland, là in fondo», e distese l'indice. I due Mohawk seguirono la traiettoria e in mezzo alla calca variopinta individuarono il probabile oggetto del discorso, un uomo alto e magrissimo, dall'età indefinibile, vestito di rosso fiammante. Conversava con una specie di donna barile molto più bassa di lui e teneva le spalle curve. La donna aveva in braccio un animaletto dal pelo lungo e il muso schiacciato. «Che genere di bestia è quella?» chiese Joseph. «Un cane da grembo. Un essere inutile con il quale trastullarsi. Pensate che a volte i miei ospiti arrivano con scimmie accovacciate sulla spalla. E le singe, vous le savez, ils sont just comme les hommes. Scimmie, pensò Philippe. Scimmie che defecano sulle spalle? Warwick era già tornato al suo argomento. Il bravo duca era convinto che sulle vostre terre scorrazzassero i rinoceronti e che voi indiani ne riduceste in polvere il corno per trarne un afrodisiaco più potente della cantaride. Rinoceronti? Cantaride? Philippe e Joseph erano attoniti. Come dicevo, proseguì Warwick, costoro non sanno nulla delle vostre colonie. Non hanno idea di dove siano e di chi le popoli. Siamo soliti descrivere Londra come il cuore dell'impero, ma il cuore pompa il sangue al resto del corpo, mentre qui è vero il contrario. Sono le colonie a pompare il sangue che tiene in vita Londra. Quindi la città del vostro re sarebbe la testa, affermò Joseph. Warwick sorrise. Se fosse così dovrebbe contenere il cervello. Guardatevi intorno. In teoria questo salone ospita il meglio dell'alta società del regno. Ebbene, dal momento che vi accingete a trascorrere la serata in questo posto, vi invito ad ascoltare le conversazioni. Vi assicuro che non rinverrete traccia di raziocinio. Io credo che queste strade e dimore siano le terga dell'impero. Del deretano e del suo orifizio possiedono ogni caratteristica. Qui si deietta ogni risorsa che l'impero manda a noi. Solo che, per un capriccio di natura, tali terga si trovano davanti al corpo, anziché dietro. Il conte scoppiò a ridere. «Avete una strana considerazione dei vostri invitati, conte», disse Joseph. «Per quale ragione vi circondate di persone che non tenete in stima?» «Guardatemi bene, altezza. Io appartengo alla stessa specie. Anch'io vado in cerca di jouissance. Trovo il mio godimento nel disgusto. Assisto con autentico piacere a spettacoli ridicoli e rivoltanti. Allestisco serate come questa e osservo il decadere del mio tempo, un piede dentro e uno fuori lo spettacolo». Non è un segreto, tutti sanno qual è il mio scopo e non di meno accorrono a frotte perché nessun ricevimento tiene il passo coi miei. Philippe non era certo di aver capito. Joseph era certo di non aver capito. Warwick lo sapeva e di nuovo rise. Voi ignorate la natura di chi regna sui vostri vicini bianchi. Come noi, non sappiamo nulla di loro e di voi. Certo, si sa che i coloniali sono in rivolta al di là dell'oceano, ma la maggior parte di noi si è fatta un'idea vaghissima. La domanda più frequente, quando se ne parla, è «Perché ci odiano?» «Non odiano voi», disse Joseph. «Dietro il velo delle parole c'è la mia gente. Vogliono le nostre terre e la nostra dignità». «Oh, di certo non vogliono la nostra», replicò Warwick. «Ne siamo privi». Philippe vide un gatto sfrecciare sotto la sedia del grassone addormentato e fargli perdere l'equilibrio. L'uomo sbatté per terra con un tonfo e proruppe in un peto sonoro che causò l'ilarità garrula della dama più vicina. La bestiola, spaventata, si rifugiò sotto l'orlo della sottana, ma con fare deciso la signora sferrò un calcio e la proiettò lontano. Philippe guardò la palla di pelo volare attraverso il salone e si accorse che non era un gatto ma un opossum. Rimbalzò sulla schiena di uno dei danzatori, che fece finta di nulla, limitandosi a restituire un sorriso stolido mentre si spiava le spalle. Infine l'animale atterrò in mezzo alla sala, dove rischiò di essere schiacciato da decine di tacchi che si muovevano in sincrono. In quel momento Philippe lo vide meglio e capì. Non era nemmeno un opossum, né un coniglio. Era il topo più grande che avesse mai visto. Dopo un attimo di panico, il roditore puntò velocissimo nella sua direzione. Philippe si spostò per farlo passare, ma un colpo secco inchiodò il ratto al pavimento. Fu come se qualcuno avesse fatto scoppiare un palloncino. Un nastro di budella schizzò dall'addome della bestia e raggiunse la schiena del duca di Northumberland, che si girò interdetto, credendosi vittima di uno scherzo. Qualcuno gli indicò le terga ed egli compì diverse piroette prima di capire cosa l'avesse colpito. La sua dama fece appena in tempo a stendere il ventaglio e vomitare in un vaso di fiori, mentre il cagnolino leccava le frattaglie sul pavimento. I servitori accorsero a ripulire. Qualcuno intanto aiutava l'uomo maiale a rialzarsi. Philippe fu certo di averlo sentito grugnire e dovette stringere i denti per non ridere. Joseph Brent sollevò il bastone e contemplò il cadavere. Il conte di Warwick si affrettò a richiamare l'attenzione del maggiordomo. L'uomo, un nero in livrea e guanti candidi, sollevò il topo per la coda e lo portò via tra i gridolini schifati delle dame. I danzatori ripresero ad attraversare il salone a passi coordinati. Gli orchestrali erano maschere di sudore e cerone. Peter era stato reclutato con molte moine per esibirsi al violino insieme all'orchestra. Qualcuno prese a lodare il fatto che un eroico soldato nutrisse anche l'interesse per la musica e avesse un tocco così lieve. Joseph non riusciva a distendere i muscoli facciali, tanto era il puzzo che saturava la stanza, un misto di sudore rancido e fiori marci. Gli avevano detto che i nobili europei erano soliti profumarsi, ma quello che sentiva non era certo un odore gradevole. Si voltò verso Philippe, che si guardava intorno, perplesso. «Forse anche qui devono tenere alla larga le zanzare». Il maggiordomo annunciò l'arrivo di qualcuno e una donna deforme avanzò nella sala. I fianchi erano tanto larghi da sfiorare gli stipiti della porta. Una valletta doveva aiutarla a passare senza intoppi e seguirla da presso per correggerne la rotta con piccole spinte sui lati. Una scalinata di boccoli coronava la testa. L'abito sbrilluccicava come intessuto di frammenti di specchio, tanto che guardarla feriva gli occhi. Al collo pendeva una teoria di pietre intagliate che scendeva fino al seno massiccio. Il maggiordomo declamò ad alta voce una cifra ragguardevole e la donna baldacchino si guardò intorno, compiaciuta. «È il prezzo del vestito e dei gioielli che indossa», disse il conte, rivolto a Joseph e Philippe. «A fine serata proclamiamo sempre una vincitrice». «Anche le nostre donne sono ottime trasportatrici», commentò Joseph. «A dire il vero, Altezza, le nostre trasportano soltanto la propria vanità», sogghignò Warwick. «Un peso enorme, in effetti. Permettete che ve lo dimostri». Joseph osservò il conte avvicinarsi al donnone con noncuranza, baciarle la mano, vezzeggiarla e intanto far scivolare la punta del bastone sotto l'orlo della sottana. Approfittando di un rumoroso applauso agli orchestrali, sollevò appena la stoffa. Una struttura di ferro reggeva il peso dell'abito, montata su piccole ruote.